tu vieni dentro per la rete cancello. K, aspetto che esci te, eh? Ah, scappa. Quando fai il tiro del tuo portafoglio, che è un po' freddo. Dani, ma sono andato mica a lavorare. No. Io so che ho una chiamata con il numero nascosto, che non so se lui lo vede. Mi ha chiamato. Allora, va bene. Allineato e profumato. Quindi mi fido più di questo, quell'altro oggi c'è la data di revisione che è del 2019, questo è 2021, quindi può lasci pure che appena appena ci sia tarato lo Smitherman, non li tocco, lo lascio stare così, no, non mi interessa, questo è tarato così e lo lascio stare così, ma stai scherzando, la televisione oggi alla radio, ma guarda tu caro Smith. No, sicuramente l'altro uguale a questo, mi fido di più, non ci vuole niente, tolgo il coperchio, vado sulla resistenza variabile dello smitter e lo faccio a più 5, non è un problema, ma per il momento lo lascio così. Io avrei provato la francona, il 4-3, per vedere se questa è una comparata un segnale, per vedere quale è. Non lo so, vabbè, il 4-3 c'è l'altra antenna, c'è di Polo di 40, non ce n'è antenna da 27 lì. Lo sto usando come ricevitore praticamente. Capito? Io pure faccio la comparazione, ma quando sono in quel rischio che state parlando, dice qua sia quello a farlo. Va bene così, va bene così. Cappagappa, bella giornata di merda oggi. Per me è stata una giornata piena, sono molto stanco. Era il primo re, ma non da Roberto, il primo re da una stanchezza. Lo so, aspetta un secondo, che mi ha mandato un messaggio in laboratorio che voleva sapere appunto se era tutto a posto, aspetta che le rispondo. Sono qua già, Gianni. Ehi, stavo mandando un messaggio al laboratorio, dai, volevo sapere se è arrivata la radio, se era tutto a posto, e gli ho detto tutto ok, meglio di così non si può. Che laboratorio è nuovo questo? Sì, un amico a Monte Granaro, in provincia di Fermo, un laboratorio che è iniziato da poco, però è veramente un grande tecnico, ma soprattutto c'è un'onestà da vendere. Sicuramente da me prenderà tante altre cose, adesso le mando il 430 ad allineare, a dare una bella pulizia, non c'ha niente, la radio è perfettamente funzionante, però le faccio fare un bel allineamento su tutto quello che c'è da fare, capito? E basta, altre HF non ne ho, se l'avessi conosciuto prima non avevi abbigliato di una Bianconi, caro della Breda. Sai cos'è? Che Bianconi c'ha il nome. Quando c'hanno un nome sì, ma Bianconi fa pure 80 anni, capito? Questo è un ragazzo molto giovane che ha veramente voglia di fare, sta crescendo tantissimo, quindi almeno sappiamo che c'è qua. Ah, già va bene dov'è? Già va bene dov'è Gianni? Ma io mai spendo più andare a tornare la radio che la riparazione. Considera solo che Bianconi per allineare una radio vuole 80 euro. Tu immagini già di solo per allineare la radio, senza cambiare componentistica. Rugabbo va di cui farò, capito? Quindi tutto senza trasporto naturalmente, però ha fatto un capolavoro, capito? Veramente una bravissima persona. Infatti adesso questa settimana mi procuro un po' di materiale sardo e glielo mando, faccio un pacco e glielo mando, perché a me personalmente mi ha trattato veramente bene, ma bene, bene, bene, bene, e ha fatto il lavoro che c'era da fare, anche senza dire niente io, capito? Non ho capito, cosa hai detto? E anche tecnocomunicazione, che lo fa anche 140, non l'ha legato, non l'ha un po' controllato, non ha detto che era perfetto, non c'aveva io guarda, con tutta l'esperienza che ho in questa radio, manco mai sono accorto che c'era da sostituire qualcosa, perché l'ho aperto, non ho visto niente. Lui, come l'ha aperto, si è accorto che c'era a cambiare il microprocessore, l'ha cambiato. Ma è veramente una bellissima radio adesso. Bene, bene, bene, va bene così, comunque adesso la teniamo sotto controllo, sta già iniziando a scaldare, i watt sono stabili, 10 watt di portante, modulati quasi 50, 40, va bene, Michi, siamo sotto la C, non siamo al massimo, processore inserito, ottimo per la truppa. No, soddisfattissimo e rimborsatissimo, capito? Perché ci sono rimasti di Nambu Sciacca e c'ho la radio nuova che posso dare tranquillamente, garantita. Scusa già che anch'io sto messaggiando. Tu già, io non ti comprendo, mi c'è questa voce da morto, bassa bassa. La modulazione bassa bassa, non so con cosa stai modulando, devo sollevare il volume per sentirti. Guarda adesso. Adesso va bene. Quando l'ho detto così c'è chi mi dicono abbassa, abbassa che è troppo alto. Ma non è troppo alto, già non ti comprendo. Devo sollevare il volume per sentirti che è già troppo alta. Boh, ora ci comprendi io. Così va bene, normale. Va bene. Di modulazioni all'impicco, se va vedendo è una radio normale, senza sfasciare i timpani, ma da essere normale a non sentirsi niente c'è una differenza, no? Così è, mamma mia come sto, ecco qua, già entrata in funzione anche la ventolina, va bene, adesso che è caldo lo aumentiamo. Mettiamo così, 20 watt. Adesso 20 a 100 va, bene, me da. Cosa va il rosso, Mara? Dì a zio Claudio, cosa c'è? No, beh, sono sempre qua in stanza, c'ho la mia stanza, sto guardando la TV e le radio sono tutte accese, è normale. V e U, non lo so, devo guardare dentro l'armadio se c'è rimasto qualcosa, non lo so, devo vedere. No, beh, lì non ci devi parlare, sono terrestre. 446, stai parlando del PMR, sul canale 7 ti devi mettere in PMR, quella è la frequenza di Sassari. 446 081 mi sembra appunto 25, una cosa del genere, comunque canale 7, cosa sto dicendo, ti metti nel canale 7, 446 081.25, e lì qualche volta trovi gente che parla da Sassari, capito? Io non c'ho niente di questa roba qua, tolto tutto, non mi interessa più niente, manco il PMR, c'ho i portatili se voglio ascoltare, ma giusto per ascoltare, no, ho staccato anche il cavo, ho staccato tutto, no. Voglio fare solo il CB rosso, capito? Solo 27, non mi interessano altre bande, altre frequenze. Ciao, ciao Rosso, alle prossime, sono qua, quando vuoi chiama che zio Claudio è sempre qua in agguato, gappa. Sopra. Ehi, prova. Cazzo, ma forte stai arrivando, 9:10, sì. Dove sei? Ehi, 9:20, abbondante. Cazzo, che da cosa è? Allucinante, da 9:10 a 9:20, buono, buono, buono. Ah, va bene, fra, faccio 9.10 abbondante. Da 9.10 abbondante vai a 9.20 abbondante. 9.22, 9.23. Questo c'è una bomba, va bene. Ehi, aspetta. California, volevo dirgli che è indietro di circa un kHz più o meno. Aspetta un secondo, c'è qualcuno che sta chiamando. Chi è che chiama? Certo, certo che ti sento. Ciao Marco, buonasera, ben ascoltato. Ho capito, Banari, Sirigo, quella roba lì. Arrivi, arrivi, non c'è problema. KK, sì, è arrivata poco fa alle 3. Questo, vabbè, già venduta, non è che la devo tenere molto, sabato hanno già confermato, sabato vengono a prendersela, quindi è già venduta. Io ho l'altra, devo però sentire il centro assistenza perché sto notando i segnali molto molto alti. Capito, voglio sentire un po' a loro. Marco, lo senti a Marco Scorpion? Lì Silico Banari sta rientrando. No Claudio, zero totale, ho aperto tutto, squelce, ce n'è niente da fare. Sì, se l'altro Raffanco ha copiato quello che gli ho detto, che è indietro di circa un kilohertz, dai, tutto lì. Aspetta, parlando Marco, ascolta Marco, mi ascolti bene anche di radio, quindi va bene? No, ho capito, l'ho abbassata appena, dai, forse ero troppo... Adesso ce l'ho sotto la I, prima era sotto la C. Va bene, dai, avvicinati perché altrimenti non ti sentono gli altri, ok? Scappa, ciao Marco, dai, ci aggiorniamo dopo. Stavi dicendo, Fra? Prova a vedere che tolgo il VFO, vediamo. Sì, 27.074.80, capito? Non sia 75.00. Adesso si è rientrato appena, ma si è ancora leggermente, ma lascialo stare, non è niente di grave, va bene. 74.95.96, dai, lascia stare così, già va bene. Memorie, sono andato sul WiFi centrale e ho visto che la modulazione, come dice Marco, è molto più chiara a 74.80, adesso addirittura 74.95-96, ma sono pochi hertz, quindi lasciala stare così, già va bene. No, tocca, lascia stare. Kappa. Dai, io devo aprire qua un secondo il coperchio che mi ha detto il tecnico che forse gli è sfuggita quella regolazione, quindi so già come fare, glielo abbasso appena perché ho segnaloni che sei 9.40 tu Marco, con l'altra sei 9.30, quindi devo abbassare leggermente. Sì, se ti serve un riferimento, io sono liscio col filtro, quindi solite connessioni lavoro. E io Fra, tu sì, adesso sei a posto. Prima eri molto spostato di un kilohertz. Quando stavi fischiando sul 22, facendo le prove, appena sei entrato, eri circa un kilohertz, adesso è di lusso. Ma guarda che me ne sono accorto per caso, per puro caso. Vai. +9.15, zona Viale Trento Alta, 9+15. Allora, modulazione molto molto più pulita, fammi vedere il segnale. Scende di poco, scende a 9.10, ma modulazione molto più pulita, molto più aperta. Tutto qui, quando si guadagni 5 dB, però capibilissima, naturalmente, Franco, capibilissima, però un pochino perde, ma niente di grave. Claudio? Sì, Marco, di segnale. Ho detto, Marco, il mio segnale com'è? Sarebbe il confronto col segnale che mi stava dando Claudio Pocanti. Questo, vabbè, Smitter, che sei tu del 3009, 9+15, c'è lo stesso segnale che già Franco attaccato, con più watt, capito? Va bene, allora direi quello, dai. No, perché mi era sembrato esagerato con lo 930 da Claudio, vuol dire che è proprio il suo Smitter che è un po' fuori, dai. E infatti, ho già detto, se gli serve un segnale campione, io sono sempre 9.30 a tutti i K, no? Gli metto la portante muta e si regola su di me. Sono nudo e crudo, baracchino, filtro e antenna. filtro per scrupolo, e se no me lo passai a me, non sono obbligato a metterlo a me, ma lo faccio per, la, per eventuali, no? Già lo sai. Io si ricordo il caffè, amico. Ah, è Luca Flipper. Ciao Luca. Ehi, buonasera a tutti. Ehi, già sono qua io. No, no, niente di che, oh Giulio. Appena appena un pelino, dai, non c'è problema. Poi con gli occhiali adesso vedo anche meglio. Sulla sei quasi uguale all'altra, dai, un pelino appena appena in più, ma non lo tocco neanche. Vabbè, ciao Luca, buonasera, ben ascoltato. C'è anche Franco Califfo, dai, io rimango in ascolto però un secondo che devo mandare un paio di messaggi, già sono qua, dai. Io ascolto e basta, perché questi giorni ho l'abbassamento di voce e non voglio ascoltare troppo la voce. Vi ascolto, comunque salutati, primamente salutati tutti da parte mia, ascolto e basta. Ok, vai Luca. E cosa c'hai Giulio, cosa c'hai? Senza slip sei uscito stamattina? No, senza mutande. Ho l'abbassamento, ormai già un paio di giorni che ho l'abbassamento di voce. Che ti andai a muovere, Bobo? Ciao Luca, buonasera. Ciao Fra. Forse, non lo so, sarà quello, avrò preso freddo, non lo so. Infatti mi sono messo il cappuccetto adesso, per avere più caldo, visto che considerato che non ho più tevole in testa, allora mi sono messo il cappuccio. Con i cappuccetti rossi, è bella, l'ho vista, molto bella. Per una di Messina la sto facendo, solo che oggi stamattina non ho avuto tempo, poi si è messa a piovere, così che devo tararla e spedirgliela. Ah, sono una parte di te che devi mandare. Sì, sono una parte di te. Che bella, no, è bella con quel sistema, così rosso, è bella veramente. Un solo difetto ha, che sono il colore del Milan, e io sono anche milanista. Sì, io te posso milanista a te. Ma io sono un juventino, bianco-nera, a me mi piace. Si può fare bianca col capo nero, vedi, e la bobina bianca. Appunto. Vabbè dai, se prendete voi, io rimango in ascolto. Sì, dai, sto facendo roba, io non posso stare, già sto ascoltando, però dai. Ok, ci sentiamo allora, dai, abitualmente. Speriamo domani che di non avere questo abbassamento di voce, così possiamo chiacchierare. Dai, già sono qua io comunque, no, non c'è problema, vi sto ascoltando ma sto facendo cose, ok? Mi ascolti bene del radio, Lu? A voglia. Ehi, vabbè, devo fare una taratura che gli è sfuggita a Vittorio dello Smitter. Devo appena appena abbassarla, ma di qualche decibel, dai, non fa niente. Una cosa gli è sfuggita, vabbè, già lo so fare quello lì, dai. Ci sentiamo tra un attimino, se rimane qualcuno magari. Faccio questa taratura veloce. Non gliel'hai detto, mi pare strano. No, gli è sfuggita, non gliel'ho detto. Scusa, mi è sfuggita, non gliel'ho detto. Quindi non l'ha fatta. Sono intaccato il video di fare anche lo smitter, invece è rimasto così com'era. Perché io l'avevo regolato, era mezzo sorda, ma non era lo smitter, capito? Era tutto il sistema di allineamento che era così. Adesso che è tutta bella. allineata, lo smitter è troppo alto. Vabbè, già non è niente. Fuscia venduti dici di malandri, dai, portando la radio sia a posto. Va bene, dai, se rimane qualcuno, se rimani in ascolto, adesso la sto aprendo e poi magari mi metto la portante e lo taro uguale all'altro. Se gli altri ti danno tutti lo stesso segnale, allora sì, è quello da tarare. E mi sto cercando adesso, mi rimetto a fare l'SBE, quel circuitino là, dai. Già sono qua comunque. Aspetta un secondo che mi metti la portante, così mi prendo riferimento con l'altro 140. Aspetta che commuto la radio. Metti la portante. Sei liscio, normale? Sì, claro, non aggiungo, già lo sai. Sempre sui divati. Aspetta che te lo dico. Allora, aspetta che devo cambiare scala. 14 di portante. Ok, 9,25, sì, perché di solito è 9,30. Prova qua. Aspetta, non me lo dico che tu sei sempre uguale, che mai lui aumenta sempre, qualche volta aumenta di divati. Metti la portante che mi prendo il tuo riferimento. Ok, perfetto. Sei in ascolto Marco, che la apro, poi magari metto la portante e faccio la taratura all'altro. Qua c'è 9,30 spaccato. Sì, sono qua in cucina che sto predisponendo già tutto per non fare tutto all'ultimo momento. Però se chiami alzo un po' il volume e ti sento, ok? Ok, va bene, datemi un secondo, arrivo subito. Luca, ci puoi parlare? Sto facendo roba, Marco, qua, ma sono in ascolto. Avete parlato in due prima. Ho capito microfono solo. Eia, chi era l'altro? Franco? Ehi, sta facendo roba. Ma gli volevo chiedere qualcosa a proposito di quell'antenne lì che fa lui. Che Bombolo un giorno mi ha detto che dice come si fa una volta piazzata se cambio casa a toglierla un'antenna del genere. Dice che va schiumata, ma non ho capito in che senso l'ha detto. Cioè bisogna riempire schiuma anche dentro lo stilo, Olu. Io sì, io le preferisco, poi ognuno fa come vuole, capito? Però io con questo sistema, Marco, le antenne sono ancora su. Poi uno può provare anche a metterci la doppia struttura naturalmente, perché quella con le canne da pesca ci va duplico, se no ti si dronca col vento. E provarla così, se tiene lo stesso, meglio ancora, capito? Però non lo so. Sì, ho capito allora cosa intendeva, dai. Sì, è più robusta anche per la schiuma che si espande, no? So che va bene per installazioni definitive, cioè chi ha la casa di proprietà, che non conta di cambiare casa, che lui ha detto se cambio casa la devo smontare, è schiumata, ha detto che sono lì di schiumata. Vabbè, più o meno ci ho pensato a quel sistema lì, però volevo la conferma. Va bene, ok, aspettiamo la chiamata di Claudio per la taratura. Sì, l'ho fatta mentre stavi parlando, no? Non c'è nessun problema. Va bene. Prova, muta però mi. Anda. Sì, perfetto, a posto. Visto. Bene, allora mi dirigo alla cucina, dai. Signori, un saluto a tutti. Ciao Franco, Giulio, Claudio, Luca. Mi pare di non aver dimenticato nessuno. E rimango all'ascolto, Quelix per me, che poi l'ascolto sono nell'altra camera e non sentirò niente. Ciao, riprendete. Vai Franco. Ciao Marco, dai, K del Rogero, va bene che va bene, dai, ci aggiorniamo dopo. Ok, aspetta che stavo facendo qua una cosa, aspetta. Ora, va bene. Prova a fare. l'altro giorno cos'era con la portante? Io ti dico solo che qua tu stai parlando, a un certo punto sento scomparire la voce, sento la vocina bassissima, c'era un segnale che era non forte di più, era quasi come se fosse qualcuno sotto casa, quasi, però ho sentito, e non potevo riprendere tanto stavo mangiando, ho sentito che ti copriva addirittura da Roberto, cosa incredibile, e poi dalla parte opposta ai Sassari, e qualcuno mi stava provando roba veramente ma veramente grossa. Io beh, ci mettono a provare quando uno sta parlando con 6 watt, 7 watt, ci mettono anche a me con il lineare attaccato, non penso sarebbe andato da nessuna parte, vabbè, ma comunque ti ripeto, non è che mi interessi più di tanto Marco, dai, lasciamo perdere. Ognuno fa quello che vuole, io non sto disturbando nessuno, non sto rompendo le palle a nessuno, sono per i fatti miei e voglio continuare a stare per i fatti miei, se poi qualcuno ha qualcosa da dire o vuole disturbare che lo faccia a me. Non mi interessa più, non scendo più a compromessi Marco, non me ne frega più niente, va. Già ho lasciato una parte libera, sono qua per farmi due chiacchiere, per divertirmi, quindi non voglio bisticciare con nessuno. Quando vogliono provare, lo dicano, che io sono pronto a provare, ma fare così è solo fare tronzate, capito? Soprattutto una persona sta provando un baracchino da 4 watt e tu attacchi a uffa, no, vabbè, non c'è problema. Volevo capire se Marco Scorpion era ancora in libertà provvisoria. Marco, sei arrivato, dove sei, con chi sei? Ancora devo essere in balia delle onde, dai. Comunque Marco, mi ascolti bene, tutto a posto? Ottimo e abbondante. Perfetto, va bene che va bene, dai, non c'è problema. Comunque quella portante dell'altro giorno era la stessa portante dell'estate passata, quella notte, vi ricordate, quella notte famosa che era arrivata quella portante, per me era la stessa portante, qui da me arrivava 9 più 22, 25, una cosa del genere. Lo so carissimo, però quando succedono queste cose, si dice scusate che stavo provando, ma ne sono accorto, oppure sovramodulare così e disturbare un QSO pacifico e sereno, a me sono cose che non piacciono più, sinceramente parlando, poi ripeto, ognuno è libero di fare ciò che vuole, io non scendo più a compromessi, quando ci sono portanti o rotture di scatole spengo la radio e me ne vado, tutto qua. Quella non era errore, era intenzionale secondo me, comunque. Vabbè, ha voluto fare lui, pazienza, lasciamolo fare, che problemi ci sono. Non abbiamo perso lo stesso niente. Infatti non abbiamo perso niente, va bene così lo stesso, dai, non c'è problema. Cappa del Roggero, va bene, dai. Fatemi chiudere questa radio, 9:20, 6 Giulio, perfetto, come sempre, dai, ti ho dato un ma. È più a prendere la scatolina del cacciavite induttivo e fare la regolazione che aprire la radio. Ok, dai, ci sentiamo dopo che la chiudo di nuovo. Ok, d'accordo, chiudi. Vabbè, dai, rimango. Accidenti. Sono già un paio di giorni con l'abbassamento di voce e mi raschia la voce, la gola. Vabbè, comunque, facciamo a riposare, vai. Ok, a dopo. Nove leggermente di più di 9, sì, fra qui da me, leggermente più di 9, 9-1, 9-2, una cosa del genere. E va benissimo fra voi, la radio è bellissima, va benissimo, non c'è problema. Poi regolati più o meno col segnale mio, quanto ti arrivo io e ti renderai conto che stai uscendo molto bene. Anch'io sto usando l'MV4, certo, anch'io no, ma già da tempo che sto usando questo tipo di microfono. Va bene, lo stesso, non c'è problema. Dai, non continuo, se no peggiorerò la situazione, dai, scusatemi, dai, riprendi fra. Adesso sono qua, fra, dai, ci aggiorniamo dopo, ok? Stacco anch'io, ciao a tutti, dai, buona serata, buon tutto. E io, a dopo. Bella calda e con modulazione, cos'è l'MC60? Sì, perché non va? No, che va, ho detto bella calda. Ah, ma va da città. Non ci hanno anche ascoltato ancora, lascia vedere. Se faccio qualche regolazione di Mickey Gay, perché no, non l'ho messo, non manco ascoltato in cuffia, è forte la radio. Ma forte ma non fortissima, cioè non è assordante come la regoli certe volte. Volendo ci potrebbe aumentare per prova e boh. Sì, ma no, ti ripeto, quelle sono cose io non tocco, se sono state fatte così, lascio stare così, perché queste radio sono un po' particolari, capito? Quindi no, non voglio nel modo più assoluto che sia molto forte. Allora, processore inserito, ecco qua, così è praticamente un pochino più alta, dai, così. Adesso ti riconosco, porca miseria, adesso comincia a scintillare. Adesso il Mickey Gain è quasi al massimo, prima era poco più di metà, capito? Va bene che va bene, dai, la lasciamo stare così allora, o la rimettiamo com'era per fare proprio tranquilli, guarda, la mettiamo così, ecco qua, proprio la mettiamo al minimo, dai, sotto un pochino più avanti della C, va bene così, vediamo ancora, ecco qua, va bene così Marco, vai. Sì, perfetta, rilassante, urbana, la potrei definire come modulazione. Ok, dai, io vado in cucina, stacco. Ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, dai, ci aggiorniamo dopo, la grazie dell'info per quanto riguarda la radio, dai. Ok, a dopo a tutti allora, grazie. Che c'è? Manuele, sì? Manuele! Così vai a Bozzi. A Bozzi. Si usa il telefono, accendi un po' la radio. Lo giambo e non è. È entrato ieri a fare due chiacchiere, stava parlando con me. Va bene che va bene, dai. Io sono alle prese con una radio, la sto chiudendo un secondo, che stavo facendo dei controlli così proprio visivi, solo visivi, senza duca nuda. La chiudo, Tony, un attimino, dammi il tempo, poi sono qua in radio, ok? Ok, Google, ciao, ben entrato. Bene, io sono qua, dai, meno 10-15 minuti se mi intrattengo. Tanto ho già avviato la cena, è già pronta, così riposo, ho fatto un bel minestrone di verdure, che mi ha giù una gara, dai, fai col comodo. Ehi, va bene, dai. No, c'ero già, stavo facendo una cosettina, proprio una rifinitura, niente di che. Il tecnico si è dimenticato di pararmi lo smitter e mi ha dato l'info e mi ha detto vai lì, fai così, e l'ho fatto, infatti è tornato alla normalità, niente di che. Va bene, dai, un secondo, ci sentiamo subito, Tony. Ok, d'accordo. Manuele, ci sei? Lascio fare la danzura. Sto parlando più del meno, come si sente quello con l'altro. Allora, ma in frequenza si mettono la torcina, ci facciamo un po' di passaggi. E poi non è. Manuele! Esce un giorno d'ora. E tu, cingo Monica. Ehi, fai, già sono qua. No, magari. Non sarà spostato. E andrà. Ma dimmi tu, salirò piovendo, ma va faccina, attenzione, cingomone. Ehi, Antonino. Dici che stiamo accendendo, gabbo? No, perché se la gente a casa, è venuto gente. Ah, capretto. resto tutto acceso perché siamo sito, ma qua fa un telefono, ma ce ne ha 11 minuti, va. E se non qua c'è l'ora. Ma si sono uscito già da vendere, vanno da male, vai. Mica, ma cosa piovendo? Io sono alzato alle 4. E quando sta piovendo, allora mi sono avviato il minestrone, così per la cena, già pronto, me l'ho basato. Ma chi? E poi ci siamo sentiti. Vabbè. Cosa ti dice? C'è Claudio il Corix che stava chiudendo qualcosa. Ma se adesso non ha giustizia nessuno lì. E va bene, ma è qua. Comunque, me l'ha detto, Corix. Un attimino che chiudeva. Ah, ma rientrava. Sì, chiudeva l'apparato che c'era una regolazione dello smitter che il ticker non l'ha fatto, quindi, capito? Gli ha dato una dritta, cosa fare? Lo sa facendo, si chiude l'apparato, rientra subito. Sì, ma noi ciao, buonasera, ben ascoltato, aspetto, mantendo le dritte. Ehi, ciao, ciao. Vedi che qua. Ui, ma adesso non dici più, sono tutto gonfio, eh? Sì, sono tutto gonfio. Tutto sgonfio, sì. Comunque, mi guardo ogni tanto gli sketch che abbiamo fatto qua. Dai, ci siamo divertiti. Dai, da un po' di... Sta vedendo, da un po' di risate già è passata, dai. Perché non ci abbiamo pensato a divertirci a sdrammatizzare, insomma. Perché io lo dico a voce alta, anche se ero convinto di operarmi, un po' di paura ce l'avevo anch'io. Voi che mi hanno trattenuto per un giorno in più, e domani devo operarmi, mi sono cambiato ancora in più. Ah, già, ma come siamo andati, dai. Perché non si poteva stare come eravamo, dai. Io ero peggio di te, si può dire, come camminavo, però l'abbiamo fatto, dai. Io facevo due passi, dovevo sedermi, cavolo. Sì, perché, ripeto, mi tira pure anche sul lavoro, io stavo male, dai. Non mi piaceva lavorare così. Ma se faccio ne manco 7 metri, 70 cos'è? Neanche 7 metri, cazzo mi devo bruciare perché mi fa... Anzi, a parte che anche a stare in piedi mi faceva male, figurati quando dovevo camminare. E tu pensa che abbiamo fatto dall'albergo fino alla Craia a piedi 400 metri, andata e ritorno sotto 800. Poi... andare, diciamo, da sempre dove dormivamo, sino all'ospedale, 700 metri a piedi. E quante tappe gli ho fatto per riposarci, che ci faceva male l'anca? Appunto, non eravamo ancora operati, quando ci siamo fatti 700 metri. E quando ci siamo operati, cazzo di valigi, ben sabù, la camminata avevamo fatto. Di peggio, abbiamo perso 3 ore, da una parte all'altra, con Cirenze, il treno, il pullman, quello, quell'altro, sono venuti appena operati. Cazzo, una che è una strapazza, abbiamo fatto troppo casino, troppo. Tutto perché ho trovato persone ignoranti nel senso della materia. Se quello testa di parafuso e si tassista ciò che c'è la stazione lì, a lungo, è diverso. E vabbè. Ormai è andato, non ci pensiamo più, pensiamo solo a stare meglio e basta. Oramai è passata, cazzo era un incubo, ira. L'importante è che è andato tutto bene, tutto il resto. Andrà bene. E vabbè. E beh, qua, finito hai. Sì, lo sto mettendo a posto. Ok. Poi, ma io mi sono messo la fascia con le stecche, perché sono seduto, poi sono sempre in piedi, quindi è una fragosa. Quando mi alzo la mattina, è un coso di curico, non è come prima, sono molto meglio, 100.000 volte. Ma quella devi mettere, basta che non ti dà la grande uomo, la notte, questa me la devi buggare. Certo che la tolgo. Ma come c'è tra che sei il casotto? Io, quando mi sembra l'altra notte me l'ho dimenticata, mi sono bucato e mi tendi un crano, cazzo mi giravo da una bella ragazza, ma mi sento troppo stretto, cazzo abbaido, vai ancora la bacia attaccata. Oh, mi sono stretti. Houston, Joseph Australia. Aspetta che metto questa. E se lo vuoi il gasino, e la dire la faccia. La posizione è tanto costretta. Abbassa un po' l'amplificazione, Tony. Così va bene. Abbassa a terra. Come si mette? Troppo alto. Bene, fa così. Sì, anche troppo amplificata. Ah, va bene così, dai. Avanti, Claudio. Va bene, che va bene, dai, stavo facendo questa rifinitura. Dici che metto il lock, già va bene. Ok, Emanuele, l'importante è che sia tutto a posto e che quello che avete fatto sia soddisfacente per voi, insomma, per la salute, per tutto. Se vi state accorgendo che già i miglioramenti ci sono, ancora è presto, quindi un po' di pazienza e vedrai che già va tutto bene, non problema, avanti, riprendi. No, va bene, Ocra, va bene, perché ti ripeto, quando mi svegliavo la mattina, cazzo, erano dolori, ma dolori, dovevo rimanere un po' seduto nel letto e poi alzarmi, e quando mi alzavo, cazzo, camminavo tutto curvo. No, adesso mi sveglio tranquillo, senza dolori, a parte il dolore del punto e basta, però nelle gambe tranquillo. Stai dicendo niente. Il problema principale è quello, capito? Star bene con le gambe, avere tutto a posto, dai. Ok, d'accordo, va benissimo, alla grande, non c'è problema, fatemi mettere a posto le cuffie e questi cacciaviti induttivi, dai, arrivo subito. Ehi, vai Tony. Ok, siamo qua. Niente, domani lunedì vado a prendere quello spinotto famoso, per la televisione piccolina. Fretta non ne ho intanto. Quindi adesso vediamo. E dopo, per avere la mia parallela, un attimino faccio un salto e andiamo a Lima Delta. E niente, io non mi cambio neanche. Vediamo cosa le botte, boh. E giù botto. Io va bene così, sono visto per casa, cosa me ne affutti? La dirotti che ti vedi. Ma se devi andare a decidere, cosa ti devi dire? A dire sì, boh. E infatti, non vedi nessuno in macchina, ma. Ah, dottor, 20 minuti tanto lì, va messa, poi 7 meno 20 meno 4 è casa sua, quando si scende in mezzo, no, che 7 meno 20 di qua, dai. Allora, che tu hai fatto da lei, ma è tutto un cecciolino che tu hai. Ah, che rompimento. Me lo posso immaginare, sarà tutto un funghi, me lo posso immaginare. Doveva mettere, sai, ma la fai, ma no, e lui un po' doveva. Cazzo, io da 3 mesi si vendeva, la mia era cassa di le balle che credo. Se mi dico che sono i bacini vuoti, i bici vuoti li chiudo a moglie. Cosa? Se qualcuno mi dice che i bacini sono vuoti, i bici vuoti li chiudo a moglie. Ma non ho visto, non so se si è fatto il caso, quello di fronte alla città, di fronte alla... all'alto la faccia dove c'è l'Ausa. Visto da quel vascone che è pieno d'acqua? No, non ce l'ho tanto. Pensa a lui da vari vei. Non ci ho ballato. Qua, sei arrivato? Cosa? Ma io stamattina, oggi a luna, ho visto il telegiornale che là. Ma ho visto bene che la Sardegna è di nuovo gialla. No, 15 giorni, la prossima settimana, però siamo ancora in zona arancione. Però quello che ho visto è